Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Wombat News. Questa puntata sarà particolarmente disagiante perché sono in una regia che non ho mai usato prima, che ovviamente non vi svelerò dov'è. E quindi proverò a fare del mio meglio per darvi qualche informazione, però veramente non potete immaginarvi le condizioni in cui sto trasmettendo e quindi abbiate comprensione se sarò meno brillante del solito. Ok, iniziamo allora a guardare un po' cosa è successo questa settimana e ovviamente il mese d'ottobre si è aperto purtroppo non con un grandissimo bilancio per il mondo delle lotte, e infatti l'evento principale che ci viene consegnato è l'attacco praticamente frontale a tutta una serie di esperienze di lotta che vanno in un raggio molto ampio. Sia da alcune esperienze come quella di Riace, non troppo lontane da modelli istituzionali, a esperienze molto più radicali e molto più di rottura con quelle che sono i modelli di accoglienza, come può essere quella del presidio Cegesù alla frontiera del Monginevro italo-francese. E quindi, dopo tutti questi modelli non compatibili con quella che è il nuovo corso che si vuole dare alla gestione delle migrazioni in Italia da parte del governo leghista Grillino, e punta ovviamente a cancellare questi modelli per imporre la loro visione unica, dove il migrante deve essere possibilmente respinto, o comunque quelli che servono al sistema economico italiano, perché è innegabile affermare che i migranti servono al sistema economico italiano, comunque deve essere mantenuto in una posizione il più possibile precaria e illegale per poter meglio sfruttare la forza lavoro che manda avanti una larga parte dell'indotto italiano, soprattutto legato a alcuni settori dell'industria come quello tessile o soprattutto al settore dell'agricoltura. Ok, iniziamo con un consueto pezzo musicale. E tra l'altro non ho capito come collegare il microfono al computer, il mixer al computer, quindi praticamente reggerò il microfono accanto alla cassa per farvi sentire il pezzo. Ringraziatemi per questo gesto di cortesia che sto facendo nei confronti di voi ascoltatori. Torniamo tra pochissimo con un racconto più dettagliato di questo attacco alle esperienze di lotta migratoria. Beh, visto che non riesco palesemente a risolvere il problema della musica, facciamo sta maratona di notizie e la musica ve la sentirete un'altra volta. E mi scuso ancora con gli ascoltatori di Radio Wombat, che però sono ben abituati al disagio dei nostri trasmettitori, e per cui sono sicuro che mi comprenderanno. Mi dispiace perché c'erano anche delle interviste interessanti, che era carino farvi ascoltare, però magari vi dico dove trovarle e se vi interessano ve le riascoltate voi. Allora, partiamo con quello che è successo alla frontiera italo-francese, mercoledì scorso, dove il rifugio autogestito Cegesù, che da marzo era presente per permettere a chi attraversava la frontiera di farlo con più sicurezza, potendo trovare vestiti caldi o poter mangiare qualcosa prima di affrontare una lunga camminata, o comunque anche per trovare informazioni che permettessero di superare la frontiera efficacemente, e andando così a contrastare anche uno dei meccanismi più odiosi che sono legati alle migrazioni, ovvero il fenomeno dei passeur, che altro non sarebbero che molto spesso migranti a loro volta che magari hanno una rete di agganci, anche una rete diretta di corruzione con le forze dell'ordine, che gli permette di far attraversare la frontiera ad altri migranti facendosi pagare cifre abbastanza ingenti. Questo rifugio era attivo da marzo e aveva ridotto di molto i pericoli per chi appunto si trovava a passare di lì, ma d'altronde questo lo sapete perché ne abbiamo parlato su questi canali più volte in più trasmissioni. È stato sgomberato mercoledì scorso dalla polizia. Era uno sgombero che era nell'aria, diciamo, perché era annunciato da più parti, dai giornali. Era stato richiesto da più voci, sia dalla curia che dal sindaco, che dai commercianti di Claviere, che ovviamente vedevano nel migrante di passaggio una rovina per i possibili affari della stagione turistica invernale, perché ovviamente si sa vedere dei neri che poi sulla neve si vedono anche particolarmente bene, che stanno in paese, ovviamente fa scappare i turisti ricchi e ben pensanti che del nero hanno paura. Quindi questo rifugio è stato sgomberato. E andiamo a leggere il comunicato fatto uscire dagli occupanti stessi del rifugio. Allora, sullo sgombero di Cegesù. Hanno sgomberato Cegesù, 14 camionette, varie macchine di polizia e carabinieri, il solito gregge numeroso di digostini impettiti. Sono arrivati per le 7:40 di mercoledì mattina. Hanno sfondato la porta con una rete e un martello e sono entrati. Il prete che ci ha denunciato, Don Angelo Bettoni, non si è fatto vedere. Il sindaco sì, invece. Era con la polizia a ispezionare i locali mentre buttavano fuori vestiti, tavoli, coperte, i materassi restanti, mentre arrivava la RUS per prendersi le cose e mettevano le griglie alle finestre. Ma si conosceva la posizione del sindaco, che da sempre voleva lo sgombero, in quanto Cegesù minacciava le attività economiche del paese e faceva aumentare il flusso di migranti, rendendolo più visibile, dato che si dava cibo e posto per dormire. hanno subito diviso, come secondo le loro categorie, quelli che considerano migranti e quelli che considerano anarchici, no border o come li pare. I primi se li sono portati via per un controllo di identità, probabilmente alla questura di Bardonecchia. Pare che due di loro siano stati rilasciati perché in domanda di asilo, il terzo invece ha ricevuto un decreto di espulsione. Gli altri sono stati bloccati per ora tra cordoni di polizia e hanno ricevuto una denuncia. Ci hanno sgomberato perché, come approvato all'unanimità dal Consiglio della Città Metropolitana di Torino il 5 ottobre, bisogna restituire alla politica vera, ovviamente virgolettato, il tema dell'immigrazione. Che significa, come esplicitato dal nuovo decreto sicurezza e immigrazione di Salvini, il controllo e la gestione totale di chi arriva in Italia senza il documento, considerato giusto. Significa rendere illegali nuove migliaia di persone, grazie all'eliminazione della protezione umanitaria. Significa più retate, centri di detenzione, deportazioni. Vogliono dei nuovi schiavi, disposti a lavorare per niente, sotto la minaccia costante del documento o del CPR, e che se provano a ribellarsi si vedranno bloccato o revocato la richiesta di asilo, dato che ormai anche solo partecipare alle manifestazioni significa essere categorizzato soggetto pericoloso. Cecisù si è sempre opposto a ogni forma di selezione e controllo. In quel rifugio nessuno chiedeva i documenti, nessuno gestiva, nessuno controllava. Era uno spazio per organizzarsi insieme contro le frontiere, chi le vuole oltrepassare e chi le vuole distruggere, in modo libero e autogestito, affinché ciascuno potesse scegliere dove e come vivere, senza che una frontiera spezzasse vite e scelte. Lontano dal business dell'accoglienza e dell'espulsione, lontano dal business dei passeur. Anche il vescovo di Susa, Confalonieri, ha espresso la sua soddisfazione per l'operazione di sgombero svolta dalle forze di polizia. È un prete che ci ha denunciato. È con la chiesa che la prefettura ha preparato lo sgombero, pulendosi la faccia con l'apertura di un centro di accoglienza a Ulz. E come ricorda lo stesso vescovo, la chiesa valsusina ha collaborato con altri enti per aprire un nuovo centro di accoglienza di Ulz, più adatto alle esigenze degli stranieri, ossia un luogo aperto dalle 20 di sera alle 8 del mattino. A 15 km da quella frontiera che chi vuole andare in Francia cerca di attraversare e dove le persone vengono respinte. La chiesa possiede circa il 20% del patrimonio immobiliare presente in Italia, per un valore di circa 1.000 miliardi di euro. Un impero del mattone, in pratica un multinazionale immobiliare piena di strutture e soldi, che da una parte si fa propaganda con la sua retorica dell'accogliere, dall'altra sgombera un sottochiesa che ha dato rifugio a migliaia di persone in questi quasi 7 mesi. Anche per questo hanno sgomberato Cecisù. Questione di soldi, oltre che politiche. E sono tutti contenti. Lo Stato francese e le sue guardie, che riescono a tenere meglio sotto controllo il flusso di persone dirette in Francia. Lo Stato italiano, che non ha malluoghi né spazi di autogestione, fa rispettare la sua legge e riconsegna regolarmente alla proprietà i locali del sottochiesa. La Chiesa, proprietaria dei locali, le sue cooperative che andranno a guadagnarci dalla gestione del luogo aperto a Ulx. L'attività commerciale di Clavière, che sperano di vedere così scomparire i migranti di passaggio diretti in Francia, che rovinano il turismo. Il fabbro di Gravere, che si è fatto i soldi mettendoci le griglie alle finestre. L'impresa che ha sgomberato fisicamente il luogo e buttato tutto in discarica. Ognuno ha le sue responsabilità, non ce lo dimentichiamo. Invitiamo tutti ad azioni diffuse, contro le frontiere e il loro dispositivo. Ricordiamo inoltre che la Chiesa ha comunque un ruolo di primaria importanza nel nostro sgombero. La lotta alle frontiere non si arresta. Il primo appuntamento è sotto le mura del CPR di Torino. Vabbè, questo è un appuntamento passato di ieri, che speriamo sia andato bene. Ok, cosa possiamo dire dopo lo sgombero di Cecisù? È palesemente chiaro che si punta a militarizzare anche quella frontiera, come è già successo con la frontiera di Ventimiglia, e come ogni frontiera in Italia più o meno sta subendo la stessa sorte. Questo anche in palese disprezzo dei trattati europei che garantirebbero la libera circolazione delle persone all'interno dei confini dell'Unione Europea, mentre questi trattati sono, come si vede, sospesi per non permettere ai migranti di passare. Nonostante tutto, gli occupanti di Cecisù hanno continuato a tenere in questi giorni una presenza su quella frontiera, allestendo davanti alla chiesa, alla piazza della chiesa, un piccolo presidio con cibo, bevande calde e informazioni per chi passava. E praticamente dice che in questo momento, proprio in questo momento, una notizia è uscita 23 minuti fa, anche questo presidio sta venendo sgomberato. Quindi evidentemente la lotta alla solidarietà è più che mai aperta, se anche non un'occupazione, ma appunto un gazebo sulla pubblica piazza sta venendo forzatamente portato via. In questo momento la presenza della polizia a Claviere è imponente, e quindi invitiamo tutti a rimanere aggiornati su quelli che sono gli sviluppi di questa situazione in frontiera e a partecipare dove possibile le iniziative che ci saranno. E vabbè, io ho bisogno di una pausa, quindi farò una cosa molto trashissima, cioè vi metterò la musica dal telefono. Un attimo la stampa. Allora, bentornati, vi ringrazio che state sopportando queste trashate. Andiamo quindi a vedere quella che è l'altra faccia di questo attacco che sta avvenendo su contro la solidarietà e i tentativi di costruire un mondo diverso dove le diversità non vengono più viste come un pericolo ma come una ricchezza. Da una parte dell'Italia all'altra, dalle Alpi occidentali al mare Egeo, e adesso l'Egeo riesce, non vorrei aver detto una cazzata. Sì, il mare Egeo. Il mare Ionico, scusate. E quindi, come sapete, perché l'abbiamo detto anche qui, qualche settimana fa è stato arrestato il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, per reati relativi all'immigrazione, al favoreggiamento dell'immigrazione. Come se non bastasse, dall'attacco alla persona, nella figura del sindaco di Riace, è arrivato anche l'attacco al modello Riace, un modello che si basa sull'integrazione, sull'accoglienza e su quindi una diversa concezione della questione migratoria rispetto a quella che è egemonica oggi nelle istituzioni italiane. E infatti è stato stabilito qualche giorno fa che tutti i migranti che sono presenti a Riace in servizi di accoglienza dovranno venire trasferiti in altre zone. Praticamente una deportazione di massa. È chiaro che con questo attacco, più che punire reati specifici, si punti a attaccare quello che è un modello di integrazione, anche se a noi la parola integrazione non piace tanto, e di accoglienza, anche se pure qui la parola accoglienza andrebbe un po' contestualizzata, però tant'è, per ora teniamole così. E si vada invece a praticamente a fare il gioco di quello che sulla carta si vorrebbe un po' attaccare, cioè tutto il sistema di accoglienza legato a questioni economiche, dove sui migranti non si cerca di inserirli nella società, non si cerca di dargli una vita dignitosa, ma si cerca semplicemente di farci soldi sopra, sulla loro pelle. E quindi si va ad attaccare non chi veramente gestisce cooperative in maniera mafiosa e semplicemente economicista, ma chi ha infranto la legge ma senza guadagnarci un soldo e con nobili intenzioni, cioè quella di evitare lo spopolamento e ridare vita al proprio paese. Andiamo a proposito, a leggere degli stralci da un articolo uscito ormai 10 giorni fa su InfoOut, che però è un articolo molto buono. E poi ovviamente su quella che sarà la deportazione dei profughi da Riace, degli immigrati da Riace, invitiamo tutti a rimanere informati e a partecipare in caso ci dovessero essere chiamate di solidarietà o di resistenza a questa schifosissima operazione della prefettura. Allora, le prese di posizione della leadership grillina di Di Maio e Sibilia, nella sua nuova veste di tirapiedi di Salvini al Ministero dell'Interno, vedono l'equiparazione, nel migliore dei casi propagandistica e ignorante, nel peggiore consapevolmente appiattita sulle posizioni leghiste, di un modello di meticciata e cooperazione, più che di integrazione e solidarietà, che ovviamente ne risultano, emancipatorio e dal basso al business dell'accoglienza targato PD. Paragone insensato, perché su quest'ultimo si sono costruite rese di favori, carriere politiche e non, industrie della paura e delle reazioni trasversali. Mentre Lucano, che non è nemmeno iscritto al PD, non ha intascato nulla. E semmai il comune calabrese che amministra è stato salvato dallo spopolamento e da un destino di ghettizzazione ed oppressione, come quello vigente a San Ferdinando, una settantina di chilometri ed una costa più ad ovest. In realtà il modello riace è una minaccia a tutto campo per le retoriche e le prassi politiche del governo, un qualcosa di pericoloso non solo perché parte da quella provincia abbandonata a se stessa dallo Stato, ormai assurta a terreno elettivo dei populisti nostrani e non solo perché nell'arte di arrangiarsi del sindaco riascese possono identificarsi tanti cittadini e ancor più migranti in lotta contro burocrazie ed ordinanze insensate, che lesinano aiuti ai bisognosi e pagamenti ai fornitori, ma sono prontissime e rapaci nel punire e fare cassa. Non solo perché a fronte della prospettiva di Palazzo Chigi di un welfare di cittadinanza, dai caratteri fortemente paternalisti e nazionalisti e volto a tagliare il paese sulla linea del colore, Lucano propone un welfare che ricomprende tutti gli ascesi e prescinde almeno in parte dai dogmi lavoristi, alla faccia della retorica piddina in proposito, unita a quella per cui i soldi non ci sono. Ma perché laddove imperano i modelli dell'assistenzialismo e del respingimento, quella di Lucano non è mera disobbedienza civile, come scrive Saviano, ma un'alternativa possibile, concreta e funzionale, da schiacciare con ogni mezzo. Non per una parte di elettorato grillino, passata nel giro di un lustro dai riferimenti di Gino Strada e Dario Fo, dall'abolizione della Bossi-Fini e della moneta complementare, usata concretamente da Lucano per sopperire alla mancata erogazione di fondi istituzionali, alle ruberie della Lega e ai respingimenti arbitrari a completamento dell'opera di Minniti, altro grande nemico del sindaco calabrese. E la cui insofferenza si è palesata sia sul web che nelle aule parlamentari rispetto ai grillini futuri di un generico rispetto delle regole, nascosti dietro al dispositivo del contratto di governo, o semplicemente passati armi e bagagli alle posizioni salviniane, assecondando il complottismo e il vittimismo dei vertici del governo davanti alle grandi questioni dell'attualità. Un'istanza di giustizia latente in questa fase, nei 4 mesi di tensione tra il nuovo potere giallo-verde e il suo tozzismo, e i vecchi poteri che vi si oppongono. Dalla questione anticapitalista presente nella strage del Ponte Morandi e fatta passare in cavalleria da Toninelli, alla va meno pubblicizzata vicenda dello stadio della Roma e degli intrallazzi tra i palazzinari della capitale e i vertici del Carroccio. Fino alla rateizzazione dei 49 milioni rubati dalla Lega agli italiani, per cui le eccezioni all'onestà iniziano ad essere più e più di parte delle regole e che a lungo andare possono divenire strutturali, scavando un solco di classe nel giustizialismo a 5 stelle. Il che ci porta alla seconda crepa, quella che investe il sodalizio storico tra sinistra istituzionale, società civile e magistratura, che concerne sia la governance dei territori che quella del diritto costituzionale. La magistratura è un potere molto relativamente autonomo, non solo per l'esistenza di corrente politica al suo interno che la pone in relazione con i partiti, ma anche per il sistema di porte girevoli con cui il suo personale dall'attività giudiziaria può passare a quella politica, economica e sociale. Entrambe queste tendenze si ritrovano nel caso in oggetto. Il signor Luigi D'Alessio, che non è un discutibile cantante ma il procuratore di Locri, titolare dell'inchiesta su Lucano e simpatizzante di Magistratura Democratica, aveva già avviato la sua guerra contro il modello Riace da un anno, con Minniti al Ministero dell'Interno e la dirigenza Rai che aveva bloccato una fiction su di esso a causa delle sue indagini. mentre l'ispettrice Enza Papa, coordinatrice delle operazioni sul campo, è aggravata da un clamoroso conflitto di interesse, essendo il suo compagno direttore di una struttura d'accoglienza direttamente concorrente con le cooperative riascesi. E senza richiamare esempi storici ormai familiari, sia nel senso comune che purtroppo nella cronaca, quali apartheid e campi di concentramento, per cui questa legalità è qualcosa di alieno non solo alla legittimità ma alla giustizia, ricordiamo che esiste in Italia un esercito di procuratori dediti anima e corpo in nome dello Stato, come loro compito e vocazione, all'indagare, incarcerare, compromettere l'agibilità e le relazioni quotidiane di migliaia di individui che si spendono in prima persona per cambiare l'esistente e che con il caso Lucano si sentiranno ancora più utilizzati a portare avanti le loro repressive e dispendiose crociate. Basti pensare ai processi contro il movimento Notav, portati agli ennesimi gradi di giudizio da procuratori con l'elmetto, alle sentenze contro i manifestanti che al G8 di Genova rappresentano la prima grande opposizione ad un ordine globale che la destra cerca di rivendicarsi, alle altissime condanne inflitte ai manifestanti di Piacenza e Cremona, scesi in piazza per chiudere locali sedi di Casapan difesi estremamente dalla cenere e che producono materialmente le fattispecie del reato di antifascismo. Ok, per cui quello che viene a delinearsi è veramente un quadro problematico dove la legalità sempre più andrà a divergere da quella che può essere considerata come giustizia, ma diventa sempre più spesso un semplice burocratico applicazione di regole non contestualizzate e scritte anzi con il palese intento di mantenere relazioni di potere e di sfruttamento. Quindi, da questo possiamo passare a quello che di fatto è stato un breve aggiornamento su l'ottobre giudiziario che ci siamo trovati ad affrontare. Perché sa, d'agosto non succede mai un cavolo in Italia. Quindi tante cose rispuntano fuori d'autunno. Tra cui ci sono state ieri, no, ieri no, perché era domenica, ci sono state in questi giorni diversi processi importanti di cui diamo notizia. Uno sono stati la conclusione del processo per gli scontri al carcere delle Vallette a Capodanno, pesanti condanne ai sei indagati. 3 anni e 8 mesi per Cello, 3 anni e 5 mesi per Pise, 2 anni e 9 mesi per Giulio, Quare e Salvo e 1 anno e 4 mesi per Paolo. Nello stesso tribunale e lo stesso giorno, tra l'altro, sono state comminate anche tutta una serie di sentenze per una manifestazione Notav del 28 giugno. Sono state comminate in totale 33 anni di sentenze distribuite su 16 indagati per una manifestazione non c'è scritto l'anno, io non me lo ricordo. Una manifestazione contro il cantiere, comunque. Per quanto riguarda invece quello che succede da noi, c'è stata pure una delle prime udienze, non proprio la prima, però di fatto la prima del processo per l'operazione Panico, in cui è stata ammessa la costituzione di parte civile di Casa Pound Italia e del sindacato di polizia SIULP. E sono stati calendarizzati tutti i vari testimoni. La prossima udienza sarà questo giovedì, al Tribunale di Firenze. Quindi invito chi volesse portare la propria solidarietà agli imputati che saranno in aula per il processo, di venire e di assistere. E la stessa giornata c'è stata anche una bella iniziativa di solidarietà davanti al carcere, dove si sono radunate un centinaio di persone, e c'è stata pure risposta a parte dei detenuti che, per far sentire la loro voce, hanno dato fuoco a varie cose. Il fuoco poi si è propagato, costringendo i pompieri all'intervento. Per cui ci auguriamo che il fatto che ogni tanto noi che siamo fuori, purtroppo meno spesso di quanto si dovrebbe, ci ricordiamo di portare la nostra solidarietà anche con la nostra voce, i nostri cori, il nostro casino, a chi sta dentro il carcere, ricordandoli che non ci siamo dimenticati di loro, a invogliare chi sta dentro a organizzarsi per abbattere questa infame istituzione su cui si basa tutta la società, che è il carcere. Ok. Andiamo avanti. In realtà non è che ci sia più molto da dire. Vabbè, vi metto un altro pezzo musicale. E poi dopo vediamo. Ok, rieccoci tornati. In realtà non è che ci sia molto da aggiungere, se non ricordare brevemente alcune cose. Per esempio, il fatto che oggi sia l'anniversario. Scusate un attimo, vabbè, oggi è l'anniversario del 15 ottobre 2011, degli scontri, della manifestazione del 15 ottobre 2011, il processo è ancora in corso con accuse molto pesanti, come quelle di devastazione, saccheggio e tentato omicidio. Quindi vi invito anche a rimanere aggiornati su questa questione. E vi invitiamo a seguire Quindi anche gli aggiornamenti che ci portano su questo i compagni di Radio Onda Rossa, che da questo punto di vista sono una radio molto più seria di noi, però noi sicuramente in pochissimo tempo li supereremo e diventeremo fighissimi, però abbiate ancora un po' di pazienza. Aspettando quel giorno, io vi saluto, vi ringrazio di aver sopportato questa puntata molto disagiante e disagevole di Wombat News, e vi continuate ad ascoltare Radio Wombat con le trasmissioni della giornata, tra cui non ultima Fuoco alle Polveri, in cui torneremo brevemente a riparlare di Gesù. E noi ci sentiamo con Wombat News lunedì prossimo, e ci vediamo.